Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io difficilmente ho trovato qualcuno che mi diceva che stava al nord perché lo preferiva al sud, perché non amava la propria terra, perché non avrebbe preferito vivere nella propria città. C'è sempre un po', come c'è il mal d'Africa, c'è un po' il mal di sud, c'è sempre un po' la nostalgia e la voglia di tornare, perché c'è comunque un grande amore. Nostalgia canaglia, e oltre al mal d'Africa c'è anche il mal di sud. Sentite la ministra Boschi, così ha detto la presentazione di un libro sul sud. Ci sono tante nostalgie, insomma, nostalgia canaglia, per l'appunto, come diceva la canzone. Ma noi ci concentreremo su molte altre cose in realtà questa sera. Effetto Notte, sapete, come sempre, un racconto della giornata con poi diversi ospiti con i quali scandagliamo degli argomenti in particolare. Notizia di oggi e di fine anno è che la cancelliera Angela Merkel è stata scelta dal settimanale americano Time come personaggio dell'anno. Condividete o non condividete questa scelta? Pensate che come secondo, dopo Angela Merkel, è arrivato al-Baghdadi, il sedicente califfo, sedicente leader dell'ISIS. Terzo, Donald Trump. Donald Trump, che ha detto subito: ma come è possibile? Si è indignato, ha detto: io ero il super favorito. Invece è stata scelta una che sta portando la Germania alla rovina. Così ha detto. E ieri abbiamo parlato abbastanza lungamente di Donald Trump, nel senso, anche con diciamo, l'input che vi ho lanciato per mandare i vostri messaggi, come anche stasera, però su Angela Merkel, la pagina Facebook di Effetto Notte, e i messaggi al 349-238-6666. Ieri vi dicevo che Donald Trump ha lanciato queste provocazioni, nel senso, sono le sue posizioni, in cui ha detto: per battere il terrorismo islamico bisogna mandare via i musulmani dagli Stati Uniti, non farne più entrare nessuno, e chiudere internet in particolare in alcuni paesi. Ci sono state molte reazioni, gli stessi repubblicani lo hanno scaricato, lui è candidato repubblicano per le presidenziali del 2016 in America, ma per esempio il Washington Post oggi lo paragona a un moderno Mussolini d'America. Ieri la Casa Bianca ha detto: uno così non può fare il presidente degli Stati Uniti. J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, addirittura ha detto: è più cattivo di Voldemort, il malvagio antagonista del maghetto Harry Potter. Però pare che Trump oggi nel sondaggio Ipsos sia ancora più forte delle critiche, perché vola al 35% in testa tra i candidati repubblicani. Insomma, queste sono poi le reazioni. Evidentemente sa di parlare alla pancia di qualcuno. Questa sera so di parlare, come sempre, a voi ascoltatrici e ascoltatori. Vi lancio anche un appello. Tre jumbo sono stati abbandonati in pista, nella pista in Malesia, dello scalo di Kuala Lumpur. C'è l'appello dell'aeroporto ai proprietari: venite a riprenderli. Qualcuno ha abbandonato tre Boeing fermi da anni in questo scalo. Se qualcuno di voi fosse proprietario di questi Boeing, questi jumbo, vada a ritirarli, perché dicono all'aeroporto: se entro 2 settimane non viene nessuno, saranno nostri. I titoli: la guerra all'ISIS, Putin evoca il nucleare e dice: spero non serva mai. Gli Stati Uniti si ritengono in guerra contro il sedicente Stato Islamico e ammettono: non li abbiamo contenuti. Angela Merkel per la rivista americana Time: è lei la persona dell'anno, e le dedica la copertina definendola leader di un mondo libero. Migranti, nuova strage di bambini nell'Egeo, dall'inizio dell'anno le piccole vittime sono 700. Donald Trump e le proposte contro il terrorismo, il candidato repubblicano alle presidenziali americane ribadisce le sue posizioni: via i musulmani dagli Stati Uniti e chiudere internet in alcuni paesi. Ma anche il primo ministro israeliano Netanyahu ne prende le distanze. Violenza sulle donne, sempre un bollettino di guerra. Nelle ultime ore una ragazza nel casertano arsa viva dal suo compagno, un'altra in Calabria accoltellata dal fidanzato e una donna uccisa dal marito a Varese. Omicidio stradale, il governo chiede il voto di fiducia sul disegno di legge. Napoli, crollo all'università, viene giù un'ala in disuso, tanta paura, diversi danni. Roma, domani lo sciopero del personale addetto alla manutenzione della metro, ma il prefetto avverte: è illegittimo, pronti a precettare. L'ultimo saluto a Crizia, in molti funerali della stilista, ma assente i colleghi della moda tranne Rosita Missoni. Calcio, in Champions stasera tocca la Roma, si gioca tutto con il Bate Borisov, scontro tanto tra Pallotta e Gabrielli sulla sicurezza all'Olimpico. Partiamo quindi dalla guerra all'ISIS. Putin, come avete sentito, ha evocato la possibilità di armi nucleari, ha detto poi in realtà non sono necessarie per battere l'ISIS, ma insomma un po' ha paventato questo fantasma, e gli Stati Uniti si ritengono in guerra intanto contro il sedicente Stato Islamico e ammettono: finora non li abbiamo contenuti. More fundamentally has been intelligence, and we've gotten a lot better intelligence picture now. È stata fondamentale l'intelligence e ora abbiamo immagini dettagliate degli obiettivi e siamo più capaci di condurre strategie più efficaci contro l'ISIS. Con queste parole, Ashton Carter, segretario della difesa nonché capo del Pentagono, ammette senza mezzi termini che gli Stati Uniti sono in guerra contro l'ISIS. In un'audizione davanti alla Commissione Difesa del Congresso per aggiornare sulla strategia degli Stati Uniti contro i jihadisti, il numero uno del Pentagono spiega di aver personalmente contattato 40 paesi per chiedere un maggiore contributo nella lotta allo Stato Islamico. Per quanto riguarda la Russia, che proprio oggi non ha escluso l'utilizzo di armi nucleari contro il terrorismo, per Carter deve concentrarsi sulla parte giusta di questa guerra. Il ministro degli esteri americano Kerry ha chiamato la sua controparte russa Lavrov per discutere la convocazione di un incontro sulla Siria nel formato di Vienna. Intanto si apprende che il califfo al-Baghdadi si sarebbe rifugiato a Sirte, in Libia, proveniente dalla Turchia, dove era stato portato per curare le gravi ferite riportate in un raid aereo iracheno nell'ottobre scorso. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torniamo a parlarne di questa, vi dicevo, ventilata minaccia di Putin. È solo questa minaccia per mostrare i muscoli da parte della Russia, oppure un avvertimento che potrebbe essere in seguito concretizzato, oppure una più perentoria chiamata alle armi per una coalizione più decisa rispetto a quella che è stata finora? Ne parleremo dopo. Intanto passiamo a Angela Merkel. Per la rivista americana Time, vi dicevo, la persona, è lei la persona dell'anno, e le dedica una copertina definendola leader di un mondo libero. E la scelta di Time fa andare su tutte le furie Donald Trump, il miliardario americano candidato repubblicano per le presidenziali 2016. Ero io il favorito, dice, invece hanno premiato una che sta portando la Germania alla rovina. E dopo le proposte di ieri per combattere il terrorismo islamico, che vi dicevo, Trump risponde alle polemiche, quelle della Casa Bianca, i repubblicani stessi che hanno preso le distanze, ribadendo di essere nel giusto e confermando le sue posizioni. Oggi al coro di chi disapprova si è aggiunto anche il primo ministro israeliano Netanyahu, che respinge, dice, le recenti affermazioni di Donald Trump sui musulmani. Questo lo fa sapere il suo ufficio, ricordando che lo Stato di Israele rispetta tutte le religioni. Come se non bastasse, un'agenzia di questi istanti, una dichiarazione dell'ONU, secondo cui le affermazioni di Donald Trump sui musulmani danneggiano il piano di reinsediamento negli Stati Uniti dei profughi siriani e di altri paesi che sono in fuga da guerre e persecuzioni. Lo afferma l'Agenzia per i rifugiati dell'ONU. Quindi c'era praticamente tutte le istituzioni, leader mondiali, eccetera, contro per il momento Trump. E vi chiedo, per quanto riguarda invece Angela Merkel, apprezzate questa scelta? Potete scriverlo sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure attraverso gli sms al 349-238-6666. A Parigi nel frattempo fanno un altro passo in avanti le indagini sulla strage del 13 novembre e nuovi arresti ci sono anche in Germania. La sua morte è stata annunciata da un sms. Tuo figlio è stato uno dei martiri del Bataclan. È con questo messaggio inviato dalla Siria che la mamma del terzo kamikaze del teatro di Parigi seppe quale fine aveva fatto Agad Mohamed Foued, ed è anche grazie a questo testo che è stato ora identificato. Tre settimane dopo la strage, dunque, anche l'ultimo jihadista ha un'identità. Residente a Strasburgo, nella primavera del 2013 era partito per le trincee del califfato insieme al fratello Karim e ad altre 8 persone. Al rientro gli altri erano stati arrestati, ma non lui, Agad, che aveva proseguito la sua guerra santa unendosi al gruppo di fuoco di Abaoud e Salah Abselman, tuttora ricercato. Conferma la sua identificazione il premier Manuel Valls, ma ancora molto resta da indagare in Francia, in Belgio e pure in Germania, dove tre estremisti islamici dai 17 ai 35 anni sono stati arrestati. Pianificavano attentati a Berlino e lavoravano per reclutare combattenti per il califfato. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E parliamo di migranti adesso, perché l'emergenza sbarchi purtroppo prosegue nel Mar Egeo, dove oggi ci sono state altre vittime, tra cui 5 bambini. L'allarme dell'Unione Europea arriva all'indomani dell'ennesima strage nel Mediterraneo. Bruxelles e gli altri stati membri devono correggere le lacune negli hotspot, incluso stabilire le capacità ricettive e concordare un calendario con gli altri punti di accoglienza. In sostanza la UE chiede che venga assicurata la registrazione dei migranti con misure per chi rifiuta di farsi identificare. L'Italia sarebbe nel mirino per il ritardo nel sistema di fotosegnalamento. Per il ministro degli interni Angelino Alfano, una procedura di infrazione pressione sul nostro paese sarebbe irragionevole, perché a noi l'Unione deve solo garanzie. Intanto si continua a morire, altra strage nell'Egeo, 11 migranti di cui 5 bambini nell'affondamento di un barcone. I decessi nel 2015 nel Mediterraneo sono più che raddoppiati, passando da 1.600 a 3.002, come rivela il direttore generale di Migrantes, Monsignor Giancarlo Perego. Di questi, oltre 700 sono i bambini. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica. A proposito di omicidio stradale, il governo chiede il voto di fiducia su questo disegno di legge, lo ha annunciato nell'aula del Senato appunto la ministra Maria Elena Boschi, e il governo difende il salvabanche ma studia anche misure per i correntisti. Il ministro dell'economia Padoan difende la linea del governo che ha salvato con un decreto le casse di risparmio di Ferrara, di Chieti, Banca Etruria e Banca Marche, con conseguenze però molto delicate sui risparmiatori, da qui l'annuncio dello stesso ministro di un provvedimento a breve per sostenere chi è più in difficoltà. In concreto Palazzo Chigi lavorerebbe all'istituzione di un fondo per salvaguardare i correntisti, titolari delle obbligazioni. La misura entrerebbe da subito nella legge di stabilità. A questa guarderebbe anche la maggioranza, in particolare il PD, perché si tutelino anche gli azionisti. Da Scelta Civica il sottosegretario all'economia Zanetti chiede intanto una commissione d'inchiesta sulla vigilanza bancaria. Stiamo cambiando il paese, stiamo introducendo il rivoluzionario principio per cui non si possono considerare privati i guadagni e pubbliche le perdite. La Commissione europea bloccò l'intervento del fondo di tutela dei depositi, replica dalla Banca d'Italia il capo della vigilanza Barbagallo. L'intervento del fondo avrebbe consentito di porre i presupposti per il superamento delle crisi senza alcun sacrificio per i creditori delle quattro banche. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a questo proposito del decreto salva banche, notizia che arriva adesso per esempio sul sito di Repubblica di un settantenne, un pensionato di Civitavecchia che si è suicidato. La notizia è stata diffusa da Etruria News, il suicidio è del 28 novembre, ma solo oggi i suoi familiari hanno ritrovato la lettera nel computer scritta dal pensionato per spiegare il suo gesto estremo. Non ha retto praticamente allo shock di aver perso tutti i risparmi di una vita. L'associazione Vittime del Salvabanche in un comunicato conferma la notizia e invia le condoglianze alla famiglia. Una lettera lasciata alla famiglia, si legge, ha confermato che si è tolto la vita straziato dalle conseguenze del decreto Salvabanche. Ci spostiamo all'estero con la notizia arrivata giorni fa sulla scomparsa di Lenia Carrisi, figlia di Albano e Romina. Vi ricordate, si parlava della possibilità di una donna che era stata uccisa parecchi anni fa, di un serial killer che aveva confessato, probabilmente poteva trattarsi di Ilenia, invece non è Ilenia Carrisi, la vittima del killer in Florida. Così l'agente speciale Dennis Halley ha comunicato a chi l'ha visto che il confronto del DNA che era stato prelevato ad Albano e Romina non è della donna trovata morta in Florida il 15 settembre 1994. Siamo con la cronaca e di nuovo in Italia. Femminicidio, ha ucciso la moglie accoltellandola davanti ai due bambini al culmine di una lite in casa nella piena notte tra martedì, insomma questa notte. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri tra Cavaria con Premezzo e Gallarate nel Varesotto. La vittima è una donna di nazionalità albanese di 30 anni, lui stesso l'assassino ha chiamato poi i carabinieri confessando: sono stato io. E continua a essere un bollettino di guerra, perché oggi sono avvenuti altri tre episodi molto gravi, gravissimi: una ragazza nel Casertano arsa viva dal suo compagno, un'altra in Calabria accoltellata dal fidanzato e la donna, avete sentito, uccisa dal marito a Varese. E a proposito dell'uomo che massacrò di botte la fidanzata, che adesso è in stato vegetativo, il padre chiede una petizione, una raccolta firme, una proposta legge per le vittime che devono essere risarcite. Domani c'è lo sciopero della metro a Roma, ma il prefetto Gabrielli dice: è illegittimo, siamo pronti a precettare. Lo sciopero indetto dalla FIOM riguardante il personale CAF, ha detto la manutenzione della metro di Roma, dice: è illegittimo, dice Gabrielli, va revocato pena la valutazione delle sanzioni. E a Napoli adesso, dove si sono letteralmente sbriciolate in tarda mattinata due palazzine dell'università di veterinaria, quella della presidenza e degli uffici dei ricercatori, scricchioli c'erano fin dalla mattina, hanno preceduto questo crollo che per fortuna non ha provocato vittime. Tanta paura nella strada poco distante dalla stazione centrale della città. Edoardo Sirignano ha intervistato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borelli, primo a dare la notizia. Stamattina mi hanno chiamato alcuni cittadini preoccupati perché c'era stata una voragine che si era aperta proprio nei pressi dell'ex residenza universitaria della facoltà di veterinaria, che è abbandonata da molti anni. Appena si è creato questo parapiglia sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, che hanno cominciato ovviamente a perimetrare l'area. Subito dopo ci si è resi conto che la voragine quasi certamente aveva impattato sugli edifici vicino, tutti di proprietà della Federico II e della facoltà di veterinaria, mettendo a rischio creando il rischio che ci potesse essere un crollo che è avvenuto dopo poche ore, come era facile prevedere vedendo il livello di crepe che c'erano sul palazzo. Teniamo presente che quella zona ci sta pure l'orto botanico, che col rischio di essere interessato. Stiamo parlando di una zona storica e monumentale della città di Napoli, che è a ridosso di Via Foria, cioè una delle arterie principali che collega le due parti della nostra città. E adesso parliamo dell'addio a Crizia, la stilista Crizia a Milano, commozione ai funerali, è scomparsa pochi giorni fa a causa di un malore improvviso nella sua casa di Milano all'età di 90 anni, tanti amici, pochi VIP e soprattutto si è sentita forte l'assenza di tutte le firme importanti della moda tranne quella di Rosita Missoni, e tra un mese poi ci sarà la commemorazione. Per chiudere c'è la Roma che sta giocando in Champions League e c'è Dario Ricci pronto qui ai blocchi di partenza, per dirci come visto partita, tanto come l'Olimpico partita? Pure la pista atletica, quindi la metafora è più che corretta. Allora siamo al 33esimo del primo tempo, Roberta, 0-0 tra Roma e Bate Borisov, partita che si incrocia con l'altra dello stesso girone del gruppo E tra Leverkusen e Barcellona, perché come sai Roma e Leverkusen hanno gli stessi punti, 5. So bene perfettamente, lo so che tu studi la sera, finito il programma, la classifica dei gruppi di Champions, svegliamo gli altarini. Nel caso Roma e la Roma arrivasse a pari punti con i tedeschi, cioè con due pareggi, sarebbe qualificata perché ha dalla sua parte gli scontri diretti che sono a lei favorevole. Però il Bayer Leverkusen e il Barcellona stanno pareggiando 1-1, partita quanto mai aperta, e quindi sarebbe invece il caso di battere il Bate Borisov per poter essere, come si dice un po' enfaticamente, padroni del proprio destino. Al momento 0-0, Roma che comunque gioca stabilmente nella metà campo dei bielorussi. Al 23esimo c'è stata una mischia con due tiri respinti da parte di De Rossi e Digne, una Roma che tra l'altro ha perso subito nel riscaldamento Gervinho, che sarebbe del resto stava provando a rientrare dall'ennesimo infortunio muscolare, al suo posto Garcia ha scongelato dalla panchina Iturbe. Quindi 34esimo di gioco, seguiamo questo attacco giallorosso con Nainggolan che si allarga troppo, dai fammi vedere questo cross, lo so che hai da fare, dai Roberta, vediamo. Vedi che Zeko fa la sponda, Pjanic fuori di poco, mi spiace. Pensa se vediamo bello se lo raccontavamo in diretta. Saranno no. Più fortunati. A dopo, caro Darvici, ci aggiornerai dopo anche su una polemica, tra l'altro, che riguarda la Roma. Invece adesso, prima di lasciarci brevemente per aggiornare, come sempre, chi sta viaggiando, qualche vostro messaggio tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, che invece è il numero per i messaggi, ma anche sulla pagina potete scrivere benissimo. Vincenzo dice: Merkel persona dell'anno, dal Time, la signora che ha salvato le proprie banche che rischiavano con il fallimento di trascinarsi in mezza economia nazionale, quando lo facciamo noi contesta la cosa. Giorgio scrive: è una donna dalla personalità molto forte, non tutte le sue scelte sono condivisibili, ma è una grande, niente a che vedere con i cialtroni nostrani. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E continuiamo quindi con il racconto della giornata, ma con gli ospiti. Tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti. Ancora i vostri messaggi. Maurizio scrive: ringraziando il cielo non leggo il Time e non tengo l'idea di leggerlo in futuro. Paolo: una che il mondo libero lo cancella. Margherita in confronto era una benefattrice, immagino che si faccia a Margaret Thatcher, Margherita la chiama. Ilaria sulla pagina Facebook di Effetto Notte: non c'è che dire, tre personaggi che primeggiano, prima la Merkel che ha conquistato la copertina del Time, e poi vi dicevo il secondo è al-Baghdadi, il leader dell'ISIS, e poi l'altro è Trump, dice: ciascuno nel proprio campo, come si suol dire, uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Continuate sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia gli sms al 349-238-6666. Vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata se non avete acceso puntualmente alle 21. Siamo in guerra con l'ISIS, dicono gli Stati Uniti, che ammettono anche che finora non sono riusciti a contenerlo, e Putin evoca lo spettro dell'atomica, anche se poi dice non credo che sia necessario. E poi il decreto salvabanche scintille tra Banca Italia e la Commissione Europea, che si accusano a vicenda. Migranti, una strage silenziosa, ancora bambini, 5 bambini in un naufragio sono morti, ma c'è il rapporto che parla di 700 bambini morti in mare nel 2015. E poi per il giubileo, buona la prima in 200.000 l'apertura. Renzi dice troppi agenti per strada, come critica qualcuno, dice una polemica che fa ridere. Donald Trump, candidato alle presidenziali americane repubblicano, insiste sul bando ai musulmani e vola nei sondaggi, e ce l'ha con la Merkel, dice personaggio dell'anno lei, lui si infuria. Appello dei sindaci uniti a sinistra contro il populismo, questi sono alcuni sindaci di centrosinistra. E poi il crollo all'università di Napoli, è caduto una parte di una palazzina in disuso, danni ma per fortuna non ci sono vittime. Per il calcio c'è la Roma sempre 0-0 in Champions League. Vedo intanto che lo sciopero degli addetti alla manutenzione della metro di Roma dalle 22 di stasera, a fronte del fatto che la prefettura di Roma ha chiesto un incontro per venerdì mattina, è stato per il momento revocato, quindi per il momento tutto tranquillo a Roma. Adesso invece parliamo della gestione dell'intervento militare in Siria da parte della Russia. Russia che, come sapete, è intervenuta da qualche tempo in Siria a fianco del dittatore Assad, invitando più volte gli Stati Uniti e l'Europa in particolare a formare una coalizione forte che dia il suo concreto contributo militare, insomma, contro il sedicente Stato Islamico. Ricorderete intanto della crisi nel frattempo è scoppiata tra la Russia e la Turchia per l'abbattimento del jet russo. Qual è ora il nuovo capitolo che riguarda la Russia relativamente al suo intervento in Siria? Putin, possiamo dire, mostra i muscoli, perché per la prima volta il governo russo ha confermato di aver usato un sottomarino schierato nel Mediterraneo per colpire con dei missili obiettivi a Raqqarak, che è la capitale del sedicente califfato dell'ISIS in Siria. La Russia infatti ha intensificato la sua azione militare nel teatro bellico siriano, effettuando questo primo lancio di missili da crociera da un suo sommergibile. Poco dopo, il presidente Putin, facendo un po' l'analisi di quelli che erano stati i risultati, sono state colpite un magazzino di munizioni, alcune infrastrutture petrolifere, si è augurato che tali missili non debbano mai essere armati con delle testate nucleari. Questa uscita di Putin, anche se dopo il ministro degli esteri Lavrov ha detto ma no, in realtà noi non abbiamo bisogno di testate nucleari per battere l'ISIS, possiamo farlo con le armi convenzionali, però Putin con questa sua uscita ha fatto il giro del mondo. Ne parliamo con Pietro Battacchi, che è direttore della rivista italiana di difesa. Buonasera Battacchi. Buonasera a tutti. Quindi, secondo lei, intanto Putin in questo modo lancia un avvertimento, nel senso guardate che prima o poi potrebbe essere, oppure solo per riconfermare la sua posizione adesso così importante, di nuovo ritornato sullo scenario internazionale, oppure vuole una chiamata perentoria agli altri possibili e effettivi alleati, ma insomma un po' titubanti sul fatto di dover intervenire con più efficacia? Secondo lei che significato ha questa? Magari si poteva riferire anche a potenziali nemici, magari verrebbe da pensare che ha parlato a nuora perché suocera intenda in questo senso, e mi riferisco ovviamente alla Turchia, con cui ormai la Russia sta vivendo un momento di dura e forte crisi. Per cui episodi così, episodi del genere, anche simbolicamente molto rimarcati dal Cremlino, che non perde l'occasione per farci vedere video delle proprie capacità militari, servono anche a questo, a far vedere che esiste un dispositivo deterrente molto forte, capace anche di colpire obiettivi a lunga distanza con efficacia, e questo ovviamente non può far piacere alla Turchia, che non dimentichiamoci, dopo l'improvvida decisione di abbattere il Sukhoi 24 russo, non ha più messo piede con i propri aerei nello spazio aereo siriano. Questo insomma è stato un effetto collaterale di quell'episodio lì. Per cui ribadisco, il lancio dei missili da crociera dal sottomarino del Mediterraneo rientra in una strategia ad ampio raggio russa che ormai è ben chiara e ben visibile, con quegli obiettivi che dicevo prima in sostanza. Pataki, poi sempre il ministro degli esteri Lavrov russo ha detto: il problema dell'ISIS può essere in realtà risolto velocemente se si sommano le potenzialità della coalizione statunitense e quelle dell'aviazione della Federazione Russa, previo un coordinamento con le forze terrestri siriane. Come le sembra questo scenario militare? È uno scenario che comunque rientra negli interessi e negli obiettivi russi, perché insomma l'abbiamo visto, la Russia è entrata in questa guerra con un obiettivo ben preciso, che più che combattere ISIS, o quantomeno combatte ISIS fino a un certo punto, è quello di puntellare Assad, che non si trova solo a dover fronteggiare la minaccia di ISIS, ma anche quella di altri gruppi ribelli che, insomma, chiamare moderati è un esercizio abbastanza fantasioso, perché sono comunque ribelli jihadisti, per cui da questo punto di vista l'obiettivo russo è chiaro. Gli americani in realtà invece si devono barcamenare un po' tra i russi, tra la Francia, tra comunque alleati come l'Arabia Saudita, che appoggia quei ribelli jihadisti che non fanno riferimento ad ISIS, che però sono contro Assad, per cui la situazione è molto complessa. I russi hanno un obiettivo preciso, gli americani un po' meno, semmai gli americani cercano appunto di mantenere un equilibrio tra varie debolezze oppure tra varie forze nella regione. Chiaramente questo, la politica americana sta creando un'opportunità che la Russia ormai da tempo ha accolto. Alla fine il disimpegno di Obama dal Medio Oriente porta un beneficio assolutamente agli Stati Uniti, perché comunque consente di limitare l'impegno militare e quindi di diminuire i costi, ma dall'altra parte crea un vuoto che altri riempiono, è evidente. Tra l'altro oggi ha sentito Pataki che gli Stati Uniti hanno riconosciuto siamo in guerra e hanno anche ammesso non abbiamo contenuto finora davvero l'ISIS. E poi a proposito dell'intervento di Mosca, ha aggiunto la Casa Bianca, la Russia deve concentrarsi sulla parte giusta di questa guerra, perché evidentemente continuano le accuse reciproche di chi è dalla parte giusta, di chi colpisce chi, di chi sta bombardando chi, no? C'è sempre ancora un po' questa confusione. Assolutamente, ripeto, è quanto sostenevo in precedenza. I russi penso di essere nel giusto sostenendo Assad, puntellando Assad e combattendo oltre ad ISIS altre realtà jihadiste. Gli americani pensano di essere nel giusto mantenendo una posizione, diciamo, un pochino più equilibrata. Non dimentichiamoci che un alleato nella regione degli americani è nostro, essendo un paese NATO, è la Turchia, che non da oggi supporta alcuni gruppi radicali in Siria. È ormai un dato di fatto, lo sappiamo tutti, e la cosa va avanti così da anni, per cui gli interessi sono contrastanti. Fa specie sentir dire adesso gli americani che siamo in guerra. Mi verrebbe da pensare che cosa hanno fatto fino ad ora, e questa dimostrazione di quanto in realtà sia stata blando e debole l'impegno americano contro ISIS fino adesso. Vero, ormai è riconosciuto. Grazie Pietro Pataki. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Buona continuazione. Voi continuate con i vostri messaggi a pagina Facebook di Effetto Note e gli sms al 349-238-6666 per dire se apprezzate che la scelta del Time con Angela Merkel, personaggio dell'anno. Fabrizio dice: ma i tedeschi sono comunque un popolo da ammirare. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, con me anche i vostri messaggi che proseguono su Angela Merkel, il vostro apprezzamento o meno sul fatto che sia personaggio dell'anno secondo Time, sia al 349-238-6666 dove state scrivendo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi naturalmente. E guardavo, ecco, la Merkel nominata persona dell'anno ha accettato alcuni profughi puramente siriani sfollati, poi ha dichiarato chiuso quando l'Italia chiuderà. Questi sono i vostri commenti e molti altri, però vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata prima di andare al prossimo argomento, al prossimo ospite. La guerra all'ISIS, Putin evoca il nucleare, dice spero non serva mai. Gli Stati Uniti si ritengono in guerra contro il sedicente Stato Islamico e ammettono non li abbiamo contenuti. Angela Merkel, per la rivista americana Time, è la persona dell'anno e le dedica la copertina definendola leader di un mondo libero. Migranti, nuova strage di bambini nell'Egeo, dall'inizio dell'anno le piccole vittime sono 700. Violenza sulle donne, sempre un bollettino di guerra in Italia. Nelle ultime ore una ragazza nel casertano arsa viva dal suo compagno, un'altra in Calabria coltellata dal fidanzato e una donna uccisa dal marito a Varese. Omicidio stradale, il governo chiede il voto di fiducia sul disegno di legge. Per il calcio in Champions League, Roma contro il Bate Borisov, mi pare che siano sempre 0-0. Sì. Occupiamoci adesso del personaggio dell'anno, secondo la rivista americana Time, che adempie puntualmente, come molti sanno, a questo rito da anni, sempre a fine anno praticamente in questo periodo. Fino a ieri c'era la cosiddetta short list, cioè proprio gli ultimi candidati a conquistarsi la copertina di Time, erano 8 finalisti e alla fine a conquistarla è stata... Angela Merkel, naturalmente lo sapete perché ne abbiamo parlato durante la trasmissione più volte, l'ho ricordato, è la 93esima copertina da quando è stato istituito il premio e questa volta appunto è andata la copertina Angela Merkel, cancelliera di un mondo libero, questo è il titolo sul magazine accanto al ritratto della leader tedesca, mentre nel sottotitolo si legge il viaggio di Angela Merkel da figlia di un pastore luterano nella Germania dell'Est a leader de facto di un continente, quindi ne fa proprio in una frase lapidaria, un ritratto piuttosto esauriente. Merkel ha 61 anni e cancelliera dal 2005, quindi sono 10 anni che è sulla scena, che è cancelliera tedesca, ma diciamo leader del paese più forte in Europa, ha gestito la crisi dei rifugiati, poi quella economica. Le ragioni, le motivazioni che dà Time per questa scelta è si è opposta fermamente alla tirannia e ha fornito una leadership morale decisa in un mondo che ne è accorto. Scrive ancora Time, per la sua leadership nell'aver promosso e mantenuto un'Europa aperta e senza confini di fronte alla crisi economica e a quella dei profughi. Vi ricordo che questo premio del Time è stato istituito nel 1999 ed era chiamato l'uomo dell'anno, tanto per dire insomma qual era anche la logica dietro queste scelte, e poi proprio perché a un certo punto si è visto che era riduttivo e anche discriminatorio nei confronti delle donne, è stato dedicato alla persona dell'anno o al gruppo, a un'idea, a un oggetto, insomma che nel bene e nel male ha influenzato più di altri eventi nel mondo. Merkel, va detto, è la quarta donna da quando è stato istituito questo premio, sono passati 29 anni dall'ultima donna che aveva conquistato la copertina di Time, i precedenti furono Wally Simons nel 1936, la donna che per amore fece abdicare Edoardo VIII, Elisabetta d'Inghilterra nel 1952 e Corazon Aquino, presidente delle Filippine, nel 1986. Merkel quindi ha avuto la meglio su una serie di candidati, vi dicevo, da questa shortlist fino a ieri sera, l'avevo guardata appunto per capire a che punto erano, e pensate che dopo di lei al secondo posto il sedicente leader dello Stato Islamico al-Baghdadi, pensate un po' quanta importanza purtroppo viene data a un personaggio di questo tipo, e poi al terzo posto Donald Trump, candidato alla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato a lungo ieri di queste sue uscite sui musulmani, sul chiudere internet, però vorrei parlare della cancelliera Merkel con Giovanni Di Lorenzo, che è direttore del settimanale tedesco Die Zeit, prestigioso settimanale tedesco e una delle firme più note del giornalismo tedesco. Giovanni, buonasera. Buonasera, salve Roberta. Immagino in Germania sarete contenti intanto, no? O no? Tu hai una posizione. No, è una cosa strana che, come forse sapete, la cancelliera quest'anno è stata all'apice del suo successo, nel stesso momento, pochi mesi dopo, ha toccato il basso in questi 10 anni del suo essere cancelliera, perché dopo la crisi greca, dove lei un pochino è stata la bestia nera soprattutto dei paesi del sud, come quella che cercava di dettare legge, di venire descritta come una persona più potente di quello che in fondo è, poi c'è stato questo grandissimo gesto umanitario di aprire le frontiere durante un weekend proprio infuocato, dove l'Ungheria voleva chiudere le frontiere, e da quel momento la Germania ha avuto, oggi abbiamo le cifre, in quest'anno sono 1 milione di profughi, non contati quelli non registrati, e questo porta a delle frizioni enormi all'interno della società tedesca, ma anche e soprattutto all'interno del Partito Democristiano di Angela Merkel. Perciò ci sono molti che considerano lei la persona perdente dell'anno, non la norma mondiale dell'anno. A lei senz'altro sarà un conforto. Penso proprio di sì, insomma, non capita a tutti i giorni di essere sulla copertina di Time e di essere il personaggio dell'anno. Tu dicevi quindi, nonostante questi grossi riconoscimenti dati da un punto di vista, se vogliamo, americano, visto che la rivista appunto è americana, e se dall'altra parte l'Europa è prima la vista appunto come quella eccessivamente rigorista, quasi strangolatrice della Grecia senza pietà, e così anche per i paesi più mediterranei dell'Europa, più in difficoltà, poi invece con un ammorbidimento che ha avuto sia sulla Grecia, perché si è poi affidata un po' a Mario Draghi, sia in particolare sulla svolta che ha avuto relativamente ai profughi a un certo punto, come tu ricordavi, invece in Germania rischia di prendere un po' la strada del declino proprio per questa apertura, perché non ha più guardato lei a questo punto ai sondaggi, al fatto che le convenisse o meno, ha detto qui non c'è altro da fare, bisogna aprire le frontiere. Non è ancora scontato se sarà il declino, ma senz'altro rischia il declino se non riuscirà a trovare un mezzo e un segnale efficace per dire c'è un limite a tutto. Anche la società tedesca, con tutti gli sforzi che fa, con tutta la generosità, anche con tutta la ricchezza che ha, non è capace e non è in grado di gestire un afflusso come quest'anno. In ogni caso, Giovanni Di Lorenzo, si può riconoscere che è una leader di grandissimo livello, no? Un paese come la Germania lei lo sta amministrando, gestendo praticamente da 10 anni. Se lei si candidasse nel 2017 e dovesse ancora essere riconfermata, batterebbe anche il record di Helmut Kohl, no? Che è rimasto in carica per 16 anni, non è una cosa da poco. 16 anni, ma guardi che quest'anno in estate, sempre in estate, c'è stata una discussione all'interno del Partito Socialdemocratico, non nel Partito Democristiano di Merkel, che non ha nessun senso candidarsi, uno ha sostenuto questo, perché comunque avrebbe perso contro Angela Merkel. Solo per dirle quanto in fretta poi cambiano gli umori anche della società. Lei senz'altro è la persona, il personaggio politico molto riconosciuto e apprezzato, ma con questo rischia tutto. Lei deve forse ricordarsi di due gestioni molto importanti politiche che ci sono state in Germania. Una sotto Helmut Schmidt, che tra l'altro è stato l'editore del mio giornale, che è morto qualche settimana fa. Poi ci sono stati i 7 anni di Schröder. Tutte e due si sono impuntati su due programmi molto importanti. Schmidt ha detto che voleva opporsi alla minaccia nucleare da parte dei russi, che era assolutamente contro la volontà del suo stesso partito, e Schröder, che ha fatto queste riforme sociali della famosa Agenda 2010, anche quella mettendosi in opposizione ai sindacati, al suo stesso partito. Tutti e due su questi punti, che poi sono stati molto incisivi per il paese, hanno perso il potere. Merkel ha tenuto il discorso durante la cerimonia funebre di Schmidt e ha ricordato proprio il fatto del politico che per una sua opinione ha perso il potere, e davanti alla storia però gli hanno dato retta. Forse parlava un pochino anche di se stessa. Perché rischia di fare un po' lo stesso percorso. Tra l'altro, di lei si può dire, Giovanni Di Lorenzo, che nonostante appunto il suo partito sia di centrodestra, ha fatto diverse riforme di sinistra, dal salario minimo, dall'uscita dal nucleare, l'abolizione della leva militare obbligatoria, no? È il miglior partito socialdemocratico mai esistito. Ah, addirittura così lo definisci. Per chiudere, Giovanni Di Lorenzo, in ogni caso, che si sia estimatori o detrattori di Angela Merkel, bisogna dire che da figlia, come recita il sottotitolo della copertina di Time, di un pastore luterano nella Germania dell'Est, ha fatto non poca strada, no? E questo è tutto dovuto alla sua straordinaria intelligenza, al suo istinto politico veramente unico. È molto impressionante. Io penso che sarà un personaggio del quale in Germania si parlerà ancora tra decenni. Lei per la seconda volta adesso ha ricordato il fatto del pastore luterano nella Germania dell'Est. Quello che in Italia pochi sanno è che Angela Merkel è nata ad Amburgo, non nella Germania dell'Est, ed è finita nella Germania dell'Est perché il padre, come scelta di vita e politica, è andato nella Germania dell'Est, non è voluto rimanere nella Germania occidentale. Pensi un po' che cammino. Un cammino sì. Che l'ha portata fino a dov'è, come dicevi tu, Giovanni Di Lorenzo, sicuramente rimarrà scolpita comunque nella storia della Germania e non solo, di tutta l'Europa e anche mondiale. Di questo sicuramente può andare fiera. Grazie Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco di Zeit. Grazie. Piacere. E buona serata. Arrivederci. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. La piccola Hitler, personaggio 2015, uguale al Baghdadi, scrive Giovanni, un po' esagerato sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Comunque vi ricordo velocemente quali sono le notizie principali della giornata. Appunto Angela Merkel, che è personaggio dell'anno secondo la rivista Time, poi la guerra all'ISIS con Putin che evoca il nucleare e dice spero non serva mai, gli Stati Uniti che si ritengono in guerra contro l'ISIS e ammettono non li abbiamo contenuti. E poi la partita che prosegue tra Roma e Bate Borisov, sempre 0-0. Europa 24 notte. Prosegue a Parigi la COP21, la conferenza internazionale che punta al raggiungimento di un accordo per fermare il riscaldamento globale a non più di 2 gradi entro il 2100. La bozza finale dovrebbe essere pronta in tarda serata per poter essere presentata venerdì. L'Unione Europea negozia come un unico soggetto, ma ovviamente della delegazione europea fanno parte le rappresentanze nazionali. Laura Bettini ha raccolto a Parigi la perplessità e le aspettative di Natale. Massimo Caminiti, esperto ENEA della delegazione italiana. Una delle cose che secondo me da Parigi deve uscire con chiarezza è che la scienza non è negoziabile. La scienza pone dei riferimenti e dei valori di questo tipo, bisogna prenderli in considerazione. Poi la strumentazione, i tempi, la modalità magari ne possiamo discutere. L'altro punto positivo questa volta è che quasi tutti i paesi della Terra hanno mandato i loro contributi volontari. I contributi sono volontari, però probabilmente l'accordo dovrebbe essere vincolante. Come si può fare un accordo vincolante con contributi volontari? Mettendo in atto uno strumento di cui tra l'altro si parla, che è il monitoraggio di quello che uno ha dichiarato, monitoraggio, verifica e controllo. Quindi mettendo un sistema internazionale di monitoraggio degli impegni volontari che sono stati presi, cioè si sa almeno a che punto siamo e a che punto non siamo. L'altro punto che secondo me è in discussione è oltre il mettere come obiettivo, oltre il limite dei 2 gradi, anche degli obiettivi sulle cause, quindi sulle emissioni dei gas serra. Mettere degli obiettivi intermedi sulle emissioni è punto di discussione, perché molti stati non vogliono. Per esempio, i paesi si impegnano a ridurre del 50% le emissioni al 2050 rispetto ai livelli del 90, una frase di questo tipo crea a molti stati, soprattutto quelli sviluppati, che poi devono essere allora a ridurre, qualche problema. E c'è anche un altro aspetto: un accordo vincolante ma con impegni volontari probabilmente non deve passare dalla ratifica nazionale, quindi entrerebbe subito in vigore, perché sta al di dentro della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici che già è stata ratificata. In questo senso un accordo di questo tipo non dovrebbe essere ratificato dal Congresso americano. Se invece si inseriscono obiettivi quantificati di riduzione, allora si sale di livello e poi probabilmente sarebbe necessaria una ratifica da parte, per entrare in vigore, una ratifica da parte dei vari stati. E poi c'è tutto il ragionamento su cui invece secondo me qui non sta emergendo in tutta la sua importanza, che sono gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi. È vero che ci sono dei gruppi di lavoro che stanno affrontando il problema del trasferimento tecnologico, è vero che si sta mettendo su un meccanismo finanziario, però poi bisogna anche quantificare quali sono le risorse economiche. Oggi si parla di 100 miliardi di euro a regime al 2020, e chi li deve mettere a disposizione e per chi? E poi c'è il grosso problema dei paesi emergenti, perché la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici rispecchia quella che era la situazione economica del 1992, che adesso è un po' cambiata. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. C'è una notizia di poco fa di cui vorrei parlare, una notizia che si lega tragicamente al provvedimento Salva Banche, che è un provvedimento del governo di novembre scorso che ha evitato il crack di 4 istituti bancari, azzerando però di fatto i crediti degli obbligazionisti. E che cosa è successo? E si scopre adesso, perché l'ha diffuso il sito Etruria News, che un uomo, un pensionato di Civitavecchia, si è suicidato perché ha perso tutti i suoi risparmi nel crack di una banca. Ne parliamo con Paolo Gianlorenzo, che è direttore di Etruria News. Buonasera Paolo. Buonasera. Quindi hai scoperto che era legata questa morte del 28 novembre, questo suicidio? Ho scoperto perché, diciamo, su Facebook era iniziata a travelare questa voce, e alla fine ho trovato il coraggio di noi giornalisti, sono andato a casa della vedova e è uscita fuori la verità, è uscita fuori questa lettera, che è un duro atto d'accusa nei confronti della Banca Etruria, che dal momento in cui ha cambiato il profilo, diciamo, di rischio del signor Luigino D'Angelo, che 68enne, che si è suicidato per aver perso 110.000 euro dei suoi risparmi di una vita, quindi tutto quello che aveva, e praticamente il decreto ha posto fine a tutti i tentativi vani che lui aveva messo in piedi per cercare di rientrare in possesso del capitale. Paolo Gianlorenzo, tu sei stato appunto il primissimo, perché è una notizia, dicevo, di fine novembre, la vedevo poco fa in agenzia, e quindi attraverso questa lettera si è saputo che il motivo di questo suicidio di un po' di giorni fa è stato per questo motivo, quindi è stata la prima vittima ufficiale, oltre naturalmente a tutti gli esponenti. La prima vittima ufficiale di questo decreto salvabanche. Grazie Paolo Gianlorenzo. Prego. Grazie di Etruria News. Buon lavoro. E leggo giusto alcuni dei vostri messaggi adesso tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Ancora qualcuno che dice: la Merkel ha la responsabilità di una guerra economica che ha causato troppi morti, non vorrei essere nei suoi panni, perché prima o poi si dovrà rendere conto di tutto, a proposito della copertina di Time. Insomma, detrattori e estimatori, come sempre. Ci risentiamo per aggiornamenti alle 22:00.